Grazie! E beh, insomma, incominciamo bene allora. Scusate la mia voce nasale, ma insomma sono gli intoppi della stagione. Io voglio passare direttamente a un gioco, semplice, voglio dire, vi aspettavate chissà, a un gioco. Siccome siamo un popolo di che cosa? No, spero di una cosa simpatica, un popolo di programmi televisivi, e in tutti questi programmi televisivi fanno sempre queste domande impossibili a rispondere. Io non riesco mai a rispondere a una domanda, a volte quando mi capita di vedere questi programmi serali, preserali, insomma, non riesco, dico, sono proprio un ignorante. Allora vediamo se la Chiesa ne sa qualcuno più di me. Prima domanda, i pesci bevono? Allora, chi dice sì e chi dice no? Allora, il sì sulle mani. Tutto il resto, quindi è no? È così che mi state dicendo? Quindi il no? I pesci bevono, soprattutto quelli di acqua salata, perché avendo troppo sale fuori nell'acqua, soffrirebbero proprio di disidratazione per un processo di osmosi, e quindi hanno bisogno di prendere acqua salata, dato che loro prendono anche ossigeno dall'acqua, prendono anche acqua buttando fuori dalle branchie, oltre a tutto il resto, anche il sale che è contenuto all'interno dell'acqua. I pesci bevono, io pensavo che non bevessero, quindi avevo già sbagliato la prima domanda. Seconda domanda, perché tutti i vestiti che si bagnano diventano più scuri se l'acqua è comunque trasparente? Qualcuno sa la risposta? Io questa la sapevo. Gli ingegneri dove stanno? Gli esami di fisica? Chi ha fatto l'esame di ottica in fisica? Nessuno ancora ha fatto? Nella, dove stai Nella? Beh, è la fisica, l'ottica cosa dice? Per i processi di rifrazione, ecco Nella, per i processi di rifrazione la luce viene contenuta, anziché essere i colori principalmente sono riflesso della luce, frequenze della luce, non entriamo troppo, frequenze della luce che vengono riflessi e quindi noi vediamo i colori. L'acqua funge da una sorta di lente che fa andare la luce, anziché verso di noi, dall'altra parte, diciamola così, e quindi si oscurisce, è come se mettessimo quell'oggetto in ombra, ecco perché sembrano più scuri. Ora, alla prossima domanda so che saprete rispondere tutti. Terza domanda. Perché se in pizzeria aggiungi degli ingredienti alla pizza devi pagarli extra, ma se li fai togliere non ti fanno lo sconto? Beh, ora datemi la risposta. Io sinceramente la risposta ce l'avrei, ma non la voglio dire. Sorvoliamo questa domanda. Quarta ed ultima domanda, questa qui. Viviamo quello che predichiamo? Questa è la domanda che ci facciamo stasera, la domanda quella vera. Gli altri erano semplicemente per un attimo acculturarci, ci siamo acculturati un po', ma anche per smorzare i toni un pochino, in maniera un po' semiseria, di questa domanda, che non è una domanda a gioco, ma è una domanda molto, molto seria. Guardate, a me sarebbe piaciuto stasera dare il microfono a tutti quanti voi per farvi dare la vostra risposta a questa domanda. Perché è una domanda estremamente personale, però io vi invito a farlo. Non vi posso dare il microfono per, insomma, fatti organizzativi, tecnici, ma vi prego date la risposta a voi stessi, mentre io condivido con voi quello che Dio ha detto a me quando io ho fatto questa domanda a me stesso. Io mi sono chiesto, ma io vivo quello che predico? E quando dico predico, non parlo tanto di questo momento, dove posso predicare le cose più belle, ben articolate, ben strutturate. Io parlo soprattutto di quando sono sul palco della vita. Lì, innanzitutto, che cosa predico? Ma noi non parleremo di che cosa predico, o meglio, lo chiuderemo subito questo argomento. Soprattutto capiamo e vogliamo capire insieme se viviamo quello che poi predichiamo. Che cosa predichiamo? 1 Corinzi 1,24. Noi predichiamo Cristo. Potenza di Dio, sapienza di Dio. Questo è quello che noi predichiamo. Noi non predichiamo nient'altro. La risposta alla domanda se viviamo quello che predichiamo potrebbe sembrare relativa se effettivamente io predico una cosa piuttosto che un'altra. Ma la parola di Dio non è accomodante. La parola di Dio non è che si adatta alle mie esigenze, alle mie situazioni. La parola di Dio è rottura. La parola di Dio è chiara, diretta, precisa. E se dovessimo chiedere a Dio, Dio, ma che cosa si predica? Lui risponderebbe questo, Cristo, potenza di Dio, sapienza di Dio e nient'altro. Questo è il concetto, è l'argomento, è il tema principale di quello che noi dovremmo predicare e di quello che noi predichiamo come Chiesa. Io non sto dicendo che come Chiesa predichiamo altro, attenzione, eh? Quindi noi come Chiesa abbiamo la certezza che predichiamo Cristo, il Figlio di Dio, venuto sulla terra per riscattare me e te da una condizione di morte. È lì che ha dimostrato tutta la sua potenza, è lì che la sapienza di Dio si è rivelata a noi uomini. Ma, c'è un ma, e qui vi apro il mio cuore. Io sinceramente non ho ancora pregato una preghiera a stile Elia. Elia a un certo punto ha pregato una preghiera assurda, che non piovesse più, e per 3 anni e mezzo non ha piovuto più. Poi Dio gli ha detto, ora prega che possa piovere. Lui ha pregato, così è stato. Io, sinceramente, non ho ancora fatto una preghiera di quella portata. Io, sinceramente, non ho ancora vissuto l'intimità, la profondità della relazione che Davide aveva con Dio. Io, sinceramente, non ho ancora predicato un messaggio dalla potenza come il messaggio che ha predicato Pietro. Quando ripieno di Spirito Santo ha permesso a persone di ricevere il messaggio della salvezza e queste persone con punte nell'animo si sono convertite a migliaia. Io non l'ho ancora fatto. Perché? Siamo sinceri con noi stessi, perché non abbiamo ancora predicato un messaggio del genere? Dio non lo vuole? Dio si è stancato? Qualcuno potrebbe rispondermi, sai Luigi, queste cose succedevano e sono per alcune persone. Bugia. Questa è una grande bugia. Se crediamo che queste cose siano soltanto per alcuni, per favore svegliamoci. È una grande bugia che il diavolo sta mettendo sulla nostra vita. La Bibbia è chiarissima. In Giacomo 5 è specificato proprio che Elia era un uomo come noi, sottoposto alle nostre stesse passioni. Di Davide sappiamo benissimo quali gravi peccati abbia commesso nella sua vita. Pietro, una personalità alla quale, insomma, pochi di noi probabilmente avrebbero fatto un investimento come quello che Gesù ha fatto sulla sua vita. Quindi significa che queste 3 persone, così come tutte le altre persone elencate nella Bibbia, non erano dei supereroi, non nascevano tali, erano persone semplici, facilmente corruttibili come me e te. Eppure loro hanno vissuto una potenza di Dio che io non ho ancora vissuto. E dopo che ho riflettuto su questo, la mia domanda a Dio è stata, Signore, perché loro sì e io no? Io mi sento figlio prediletto di Dio. Io mi sento fortemente amato da Dio Padre. E allora, e questa è stata la mia domanda a Dio, mai come prima sto chiedendo a Dio come io possa vivere più potenza di Dio mediante lo Spirito Santo nella mia vita. La risposta è in costruzione, quindi chissà, fa un po' di tempo forse ci rivedremo, ma io voglio condividere con voi quello che Dio mi ha già rivelato. E sono queste 3 realtà. Fede, preghiera, santità. Manteniamo un po' queste parole, per favore. Queste 3 realtà non sono parole, sono realtà. La fede è molto concreta, la preghiera è concretissima, la santità si può testare proprio. Noi abbiamo fede. Abbiamo creduto in Gesù che Lui potesse essere la soluzione alla nostra condizione umana di peccatori. Abbiamo ricevuto la salvezza, il perdono dei peccati, abbiamo la speranza per la vita eterna e sappiamo che la benedizione di Dio è per la nostra vita. E questo è giustissimo. Preghiera? Io so che ognuno di noi prega. Io so che ognuno di noi ha il proprio modo, il proprio tempo, il proprio spazio. Noi siamo una Chiesa che prega. Ottimo. Se dovessi dare i voti, direi ottimo. Santità. Noi sappiamo cosa piace a Dio e non piace a Dio. Noi sappiamo cosa è giusto e cosa non è giusto. Noi sappiamo benissimo come la natura umana sia facilmente corruttibile. Ed è per questo che chiediamo a Dio forza per poter restare fermi nella nostra confessione di fede. Chiediamo a Dio che Lui possa santificarci affinché possa prendere gloria dalle nostre vite. Ma la domanda resta sempre la stessa. Io, Luigi, vivo quello che predico. Elia, un uomo alquanto insolito, un po' rude, ma che importa? Lui era un uomo che era pronto all'ascolto della voce di Dio. Dio gli diceva vai, lui andava. Dio gli diceva prega questo e lui pregava. Aveva una confidenza con Dio che era straordinaria. Ha vissuto anche lui il suo periodo di sconforto, ma ne è uscito rafforzato nella fede. Ha deciso di fare di Dio la sua forza, il suo coraggio. Ha deciso di non immischiarsi in quello che tutti gli altri facevano. Un popolo intero si era arreso all'idolatria. Elia ha detto no, io mantengo fede al patto che ho fatto con Dio. E lo ha fatto anche a costo di mettere a rischio la sua stessa vita. Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio, il cui zelo per il Signore lo ha contraddistinto. La sua relazione con lui era così forte. E quando Davide ha peccato, la prima cosa che ha fatto non è stato pensare io sono il re, devo nascondere tutto, devo camuffare, devo sminuire. Una volta che si è ripreso dal suo errore, la prima ed ultima cosa che lui desiderava era la misericordia di Dio. Non gli interessava più niente. Lui cercava solo ed esclusivamente la misericordia di Dio. Dio, colui che l'aveva soccorso tante volte, e la fedeltà e la fiducia che lui aveva in Dio era ben più di una semplice confessione, era coraggio che gli dava di poter affrontare ogni situazione. Davide è arrivato al punto di bramare la santità, tanto da poter dire a Dio, scruta il mio cuore, e se c'è qualche via iniqua, toglila per favore, anche se io non riesco a comprenderla, anche se non la vedo, per favore intervieni. Questo era il desiderio di santità che Davide aveva. Pietro, 3 anni con Gesù, ha visto cose straordinarie, ma io credo che non abbia mai ben compreso la portata e il valore di quello che stava vivendo. Era un uomo abbastanza istintivo, che ne ha fatte, in buona fede, di cose assurde e strane. Ma quando poi, nel suo processo di cambiamento, ha deciso di riconfermare il suo patto di fedeltà con Dio, ha effettivamente creduto che Gesù era il figlio di Dio, nel momento in cui ha atteso in preghiera, nel momento in cui si è riempito di Spirito Santo, nel momento in cui ha tagliato completamente con il vecchio Pietro, lì si è svelata la grande potenza di Dio attraverso la vita di questo uomo. Io e te viviamo quello che predichiamo. Quando me lo sono chiesto, volete sapere qual è stata la mia risposta? In parte. Questa cosa, credetemi, non può sussistere. Perché Dio non è parziale, cioè Dio non è fatto di parti. Dio è Dio, stop. Allora, perché io vivo una parte della gloria di Dio? Perché io vivo delle porzioni? La colpa non è di Dio, la colpa è ed esclusivamente mia, che probabilmente non ho ancora ben compreso con chi sto avendo a che fare. Io ho a che fare con Dio. L'Apostolo Paolo, dopo che ha detto noi predichiamo Cristo, potenza di Dio, sapienza di Dio, ha continuato rivolgendosi alla Chiesa in Corinto e ha detto questa cosa. 1 Corinzi 2. La mia parola e la mia predicazione non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza, ma in dimostrazioni di spirito e di potenza, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. L'Apostolo Paolo aveva a che fare con una chiesa molto particolare in questo caso, una chiesa che era abituata a ragionare. Era una chiesa che era proprio veniva sollecitata dai ragionamenti e volevano trovare la maniera di come adattare Dio alla loro vita. E Paolo, insomma, a un certo punto, le lettere che lui ha scritto alla chiesa in Corinto erano belle dirette. Ha detto, qua bisogna un attimo raddrizzare il tiro. Ed è per questo che l'Apostolo Paolo dice, non ho predicato con chissà quali grandi ragionamenti, come se volessi convincervi di qualcosa, volessi portarvi con la vostra intelligenza a comprendere chi è Dio. No, io sono venuto da voi, dice l'Apostolo Paolo, per poter fare della predicazione una chiara, precisa dimostrazione di potenza e di spirito. Dimostrazione, si vede la dimostrazione. Non è qualcosa che avverto, qualcosa che immagino. La dimostrazione io la vedo e mi dà spiegazione chiara di quello che sta succedendo. Se voglio una spiegazione di chi è Dio, io lo posso comprendere attraverso la dimostrazione della sua potenza, attraverso la dimostrazione dello Spirito Santo. La stessa cosa l'Apostolo Paolo la ripete alla chiesa a Tessalonica, 1 Tessalonicesi 1,5. Infatti, il nostro Vangelo non vi è stato annunciato soltanto con parole, ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con piena convinzione. L'Apostolo Paolo era ben convinto di quello che stava predicando, perché sapeva che era Cristo, potenza di Dio, sapienza di Dio. L'Apostolo Paolo sapeva che non riguardava quanto lui poteva essere bravo a parlare. L'Apostolo Paolo dava semplicemente lo spazio a Dio di dimostrare chi lui era. E allora, se Dio si è rivelato a Corinto con questa dichiarazione, come colui che è il centro della predicazione, e poi va a Tessalonica, Paolo, e lì presenta nuovamente Dio come il centro della predicazione, in dimostrazione. Alla chiesa di Modugno, Dio, secondo voi, che cosa sta dicendo? Qualcosa di differente? Assolutamente no. Alla chiesa di Modugno, Dio sta dicendo questo. Quello che voi predicate ha autorità in Cristo Gesù di essere dimostrato in potenza mediante lo Spirito Santo. Ve lo ripeto, perché Dio me l'ha ripetuto già tante volte. Alla chiesa di Modugno, Dio dice questo. Che ciò che predichiamo ha autorità di poter essere dimostrata in potenza mediante lo Spirito Santo. Ci credete con me? Chiesa, ci credete con me? Perché qui oggi io sto predicando a me stesso adesso e voi dovete predicare a voi stessi. Non è Luigi che oggi vi sta parlando, ma è lo Spirito Santo che parla direttamente a te, al tuo cuore, come lui ora sta parlando al mio cuore. Desideriamo dimostrazioni di potenza. Desideriamo che lo Spirito Santo possa muoversi fra di noi come mai è stato prima. E allora la nostra fede deve andare oltre l'immaginabile. La nostra preghiera deve essere perseverante. Il mio desiderio di santità deve essere ardente. Non ci possono essere immensi termini, perché altrimenti continuerei a vivere parti di Dio. E se ci sta bene, permettetemi questa frase, se ci sta bene vivere parti di Dio, pace a te, pace a Dio. Affare fatto. Ma nella notte fra mercoledì e giovedì, Dio mi ha svegliato, chiaramente, tant'è che me lo sono scritto sul telefono perché temevo di dimenticarlo. E Dio mi ha detto questo, Luigi, basta a contrattare con la mia santità. Basta. Noi non possiamo contrattare con la santità di Dio. La santità di Dio non è una sua caratteristica. La santità di Dio è la sua natura. Io non posso prendere Dio e farlo in parti. Non ne ho il diritto, è impossibile, eppure ci prendiamo la briga a volte di limitare Dio ad alcune sfere della nostra vita. Scegliamo noi qual è il livello di santità che dobbiamo vivere. Ecco perché abbiamo dimostrazioni di potenza e di spirito, perché ce li abbiamo, ma parziali, perché non abbiamo ancora dato completamente tutto quanto noi stessi a Dio. Cara Chiesa, Dio desidera questo, che noi possiamo essere santi come Lui è santo. Nel libro di Levitico, il libro che parla come non mai della santità di Dio, questo verso, queste parole sono ripetute tantissime volte. Siate santi come io sono santo, siate santi perché io sono santo. E il libro di Levitico non solo presenta la santità di Dio, ma dice che noi abbiamo accesso a quella santità e ci invita, ci guida a capire come possiamo santificare noi stessi. Lo Spirito Santo regna nella santità perché gli appartiene. Non può contravvenire a se stesso. Ora noi abbiamo accesso alla santità di Dio per grazia, ma questo non ci dà il diritto di abbassare il valore di Dio. Noi generalmente come persone siamo abituate che quando qualcosa è gratis la sminuiamo. Il fatto che abbiamo accesso gratuito alla santità di Dio non significa che possiamo diminuire la sua santità, se posso dire una cosa del genere. La santità di Dio è Dio. E mi è stata rivelata, mi è stata aperta davanti. E tutti quanti noi, tramite Gesù, abbiamo accesso a quella santità. Soltanto che si tratta ora di capire che cosa ne vogliamo fare di quella santità. E Dio dice questo, Levitico 10. Io sarò santificato da coloro che si avvicinano a me. E sarò glorificato davanti a tutto il popolo. Io, Dio, sarò santificato da coloro che si avvicinano a me e sarò glorificato davanti a tutto il popolo. È assurda questa cosa. Sapete cosa sta dicendo questo verso? Che Dio si santifica attraverso noi. Che significa? Che la santità di Dio è resa manifesta. La santità di Dio è in dimostrazione, quindi Dio è in dimostrazione attraverso me e te, attraverso quelli che si avvicinano a Lui e che avvicinandosi a Lui danno gloria a Dio, permettono che Dio possa essere glorificato. Quell'avvicinarci a Dio è per grazia, ma Giacomo 4, sì, è anche chiaro su cosa è quell'avvicinarsi, è anche sottomissione, è anche buona condotta, è anche non più un animo doppio, è umiltà. Elia, Davide, Pietro hanno avuto grande umiltà, l'umiltà tipica di chi sa che sta obbedendo a Dio, il tre volte santo. Nell'ultimo libro della Bibbia viene precisata questa cosa, che nei cieli non c'è altra cosa che viene ripetuta, santo, santo, santo. Non si dice che Dio sia buono, che Dio è bello, simpatico, carino. È vero, ma nei cieli si esalta la pura natura di Dio, la sua santità. E quella santità è concessa a noi, per grazia, attraverso Gesù. La potenza di Dio, la sapienza di Dio. La logica umana, la logica di Satana è crollata nel momento in cui ha visto Gesù risorgere. La morte lì è stata sconfitta e tutta la sapienza di questo mondo è crollata in quell'istante. Noi abbiamo accesso a tutto questo. Che cosa ne vogliamo fare? È la domanda finale. Io posso vivere tutto questo, io posso vederlo solo e soltanto attraverso lo Spirito Santo. E quindi quanto spirito sono? Allo Spirito Santo piace stare dove si prega. Allo Spirito piace stare dove la fede spacca ogni logica. Allo Spirito Santo piace stare dove ci sono cuori puri. E mentre Lui sta, accresce la nostra fede. E mentre Lui sta, perfeziona la nostra preghiera. E mentre Lui sta, ci trasforma in immagine di Cristo. E la mia santità cresce. Io ho detto a Dio, chiedimi che cosa vuoi allora. Ho capito che non posso contrattare con te e sulla tua santità, però so che tu puoi contrattare con la mia vita, nel senso buono. So che tu puoi chiedermi qualcosa. Ho detto, Dio, che cosa vuoi da me? E lui mi ha detto, Luigi, è semplice. Non è segreto. Lo devi semplicemente vivere. Cosa? Tre imperativi. Abbiate fede. Pregate in ogni tempo, santificatevi. Questo è quello che Dio ci sta chiedendo. Se vogliamo vivere quel tanto aspirato di più di Dio, che sembra quasi che sia diventato uno spot pubblicitario, ma non lo è. Dipende da noi se vogliamo renderlo uno spot pubblicitario o se vogliamo renderlo realtà. Allora io ho detto, ok, Signore, io lo voglio. Non voglio più che sia una bella frase da scrivere sull'agenda, sulla Bibbia, segnare la data, il nuovo inizia, è arrivato la nuova stagione. E quindi io questa stagione nuova la voglio. Io la voglio. E se voi, e lo so, perché davanti a me c'è una chiesa che desidera questo, allora se voi desiderate con me, per favore, abbiamo maggiore fede. Per favore, preghiamo di più, in ogni tempo. Per favore, santifichiamoci. Non c'è più tempo. Non c'è più tempo. Stasera abbiamo la cena del Signore. Io vorrei che possa essere vissuta come parte integrante di questo messaggio. Sì, chiedo anche, insomma, a chi deve... Io non ho forse comunicato a... servizio accoglienza, insomma chi si occupa di... Abbiamo tutto quanto insieme da vivere un tempo dove ti prego non correre ad andare a prendere il pane e il vino, ma pensaci, rispondi alla domanda che lo Spirito questa sera ha messo nel tuo cuore e trova risposta a quella domanda in Gesù. Quando prendi quel pane, quando prendi quel vino, simbolo di quello che Gesù ha fatto, prega con fede che tu possa essere santificato. Santificato non significa smettere di fare un peccato. Santificato significa rompere completamente con tutto ciò che è solo parvenza di peccato. È un rompere completamente. È quella bellissima immagine che la Bibbia ci dà della nuova creatura, che ha completamente rotto con il vecchio. Pietro non era più quel Pietro che aveva vissuto 3 anni a fianco a Gesù quando ha fatto quella predicazione. Era una persona completamente rinnovata. Abbiamo tanti anni che abbiamo vissuto con Gesù. È stato straordinario, è stato bellissimo, abbiamo visto. Eppure ad un certo punto, gli ultimi 3 versi, per favore. Qualcuno si azzarda a chiedere a Gesù: la mattina passando videro il fico seccato fino dalle radici, Pietro, ricordatosi, gli disse: «Rabbì, vidi il fico che tu maledicesti, è seccato». Gesù rispose e disse loro: «Abbiate fede in Dio. In verità io vi dico che chi dirà a questo monte: togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quel che dice avverrà, gli sarà fatto». Pietro, ad un certo punto, fa questa domanda: «Oh, questo ha pregato davvero per il fico, il fico è seccato davvero». Cioè, non aveva ancora capito chi aveva a fianco e ne aveva viste di cose fuori di testa. Si stava ancora a domandare: «Ma è vero?». Gesù che gli risponde: «Abbiate fede». Lo sta dicendo a me stasera: «Luigi, abbi fede e se credi, di a quel monte di spostarsi da lì e di buttarsi a mare». Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo, con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi. Santificatevi dunque e siate santi, perché io sono il Signore vostro Dio. Se quello che vogliamo è più di Dio, allora questo significa più fede, questo significa più preghiera, questo significa più santità. Ci alziamo in piedi, preghiamo, e poi possiamo partecipare alla cena del Signore. Visto il messaggio che ci siamo comunicati, per un discorso anche di ordine che abbiamo come Chiesa, chiedo a chi non ha fatto il battesimo da adulti di non partecipare. Ma se questa sera, tu che non hai avuto ancora occasione di incontrare Gesù, hai questo desiderio, vieni avanti per favore. Preghiamo per te, che possa essere anche per te una serata dove la tua vita viene completamente stravolta. A tutti gli altri dico: avete il promemoria. Viviamo questo momento come il momento decisivo. Non è uno uguale a quello che è stato già. No, è il momento decisivo dove qualcosa può realmente cambiare, ed è per sempre. Perché è sigillato tramite il sangue di Gesù. Perché è rafforzato e consacrato e sigillato dal suo sangue, ed è per sempre. Signore Gesù, grazie. Grazie perché in te si è rivelata potenza. Grazie perché in te si è rivelata autorità. E io reclamo tutta l'autorità che c'è nel nome tuo in questo momento, di poter mettere tutti quanti noi nella libertà e nell'autorità di fare scelte che ci portano a vedere la nostra vita completamente arresa a te. La nostra fede è scoppiare senza limiti nel nostro cuore, la nostra preghiera diventare un turbine che non finisce più, la nostra santità la nostra più grande aspirazione su questa terra, affinché tu possa essere glorificato, affinché tu possa essere innalzato, perché riguarda te e soltanto te. E io prego, Signore, per il pane e per il vino che prendiamo questa sera, che possano risultare per noi quel sigillo forte messo in te sulla scelta che facciamo. E io prego, Spirito Santo, che tu in questo momento possa muoverti, che tu in questo momento possa toccare le vite delle persone, che tu in questo momento possa guidare ogni cosa, che tu, Spirito Santo, possa coinvolgere gli animi delle persone, che tu in questo momento, Spirito Santo, possa ispirare visione, che tu in questo momento possa abbassare, che tu in questo momento possa innalzare, che tu in questo momento possa cambiare il destino che ce l'avamo cuciti addosso. Apparteniamo a te, e in te siamo stati lavati, in te siamo stati consacrati, e in te abbiamo speranza di vita, e noi quella vita che vogliamo. Grazie perché ce la dai. Padre, perdonaci se abbiamo contrattato con te.